Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Sin dai tempi più remoti, tutto ciò che esulava dalla norma era considerato come un segno di sventura o una raffigurazione del male. I simboli delle disgrazie e delle avversità erano invariabilmente rappresentati con figure mostruose e gli atti più crudeli e malvagi sono stati attribuiti ai molti tiranni mutilati e deformi dell'Europa e dell'Asia. Nella storia, nella religione, nel folklore e nella letteratura abbondano figure fisicamente repellenti, sempre schierate dalla parte del male. Golia, Calibano, Frankenstein, Riccardo di Gloucester, Tom Thumb e il Kaiser Guglielmo non sono che alcuni dei nomi famigerati in tutto il mondo. Una nascita anormale è considerata una disgrazia e i neonati deformi, in passato, venivano abbandonati alle intemperie per farli morire. Se per caso uno di questi capricci della natura riusciva a sopravvivere, veniva considerato con sospetto per tutta la vita. La società stigmatizzava la sua deformità e la famiglia in seno alla quale nasceva ne sentiva il peso e la maledizione. Di tanto in tanto uno di questi sventurati veniva accolto a corte, ma solo per essere deriso e ridicolizzato dai nobili che si divertivano alle sue spalle. La stragrande maggioranza veniva abbandonata a un'esistenza di mendicità, di ruberie e di fame. L'amore per la bellezza fisica ha radici profonde e risale agli albori della civiltà. La repulsione che proviamo di fronte agli abnormi e ai mutilati è il risultato del lungo condizionamento inflittoci dai nostri antenati. Ma in grande maggioranza gli abnormi sono capaci di pensieri e di emozioni normali e ciò rende ancora più straziante la loro esistenza. Emarginati e respinti, essi hanno elaborato un tacito codice di comportamento per proteggersi dalla... Questa era l'introduzione a un film stranoto, è un classico del cinema mondiale, è il film Freaks di Todd Browning, un film prodotto a Hollywood nel 1932. C'era una lunga introduzione, c'era un testo scritto che scorreva e la versione italiana, questa era la traduzione. È un film che raccontava la storia appunto di un circo che aveva come attrazioni personaggi che oggi chiameremo sotto varie diciture disabili. Li venivano usati e portati in giro come scherzi della natura, come appunto dice l'introduzione, ma l'introduzione degli anni 30. Pensate che nella atrocità di questo film, che è un film comunque bellissimo, c'era un intento quasi di dare riscatto a questa sorta di anatema arcaico nei confronti delle persone che non avessero i crismi di generalità nel loro aspetto esteriore, nella loro condizione mentale, tanto che venivano esposti nei circhi come degli capricci della natura, degli scherzi della natura. Todd Browning pagò carissimo questo film, fu messo all'indice, non fece altri film. Il film non circolò in Italia, è arrivato tardissimo, è arrivato non molti decenni fa. È un film da guardare con attenzione, da guardare con riflessione, perché gli attori sono tutte persone che hanno realmente il disagio che rappresentano in quel film. È un film che doveva almeno, secondo i tempi, cercare di iniziare un cammino di descrizione meno spettacolare, più attinente alla realtà, di persone che non rappresentano lo standard al colpo d'occhio. Naturalmente con la logica dei tempi, con il livello di percezione, di sensibilità dei tempi, in realtà continuano a recitare la loro parte, anche se il vantaggio che gli viene dato, il riconoscimento, che possano innamorarsi, come il piccolo uomo Hans che si innamora di Cleopatra, la grande, bella trapezista, la vera protagonista. Amore non corrisposto, anzi ancora peggio, amore deriso. Lei lo sposerà creando, in realtà per prendersi scherno di lui, per dileggiarlo, per prenderlo in giro. E nella finale del film la rivolta dei piccoli e deformi uomini del circo dei Freaks sarà terribile, atroce. Trasformeranno Cleopatra in una donna gallina, amputandola, togliendole la lingua, ricoprendola di penne. Ella stessa diventerà ciò che va deriso, come se ci fosse una sorta di associazione segreta dei disabili che agiscono per rendere come loro quelli che li prendono in giro. Ma in realtà tutto questo oggi lo dico come presentazione perché i tempi non sono molto cambiati. Ferrari. Oggi, se l'azienda di Stato deve fare un film con una degnissima regista come Francesca Archibugi, con una macchina e una struttura assolutamente moderna, quando cerca un personaggio che deve rappresentare comunque questo mondo che Todd Browning definiva il mondo dei freaks, lo cerca purché ispiri tenerezza. Il passo avanti nella nostra civilizzazione nei confronti di persone disabili che non devono più fare orrore, non devono più incutere a capriccio, ma devono fare tenerezza. Noi siamo entrati nella civiltà della tenerezza verso il disabile. Siete d'accordo che questo accada, o quale dovrebbe essere la lettura giusta di questo mondo non più parallelo ma perfettamente visibile oggi, anche se con molte riserve, nella società delle persone cosiddette normali? 800 24 00 24. Melog, cronache meridiane. Attenzione, attenzione! Accettiamo la sposa tra noi con la coppa dell'amore, la coppa dell'amore! Sì, l'accettiamo, è una di noi, l'accettiamo, è una di noi! Gubel Gab! Vi odio! Una di noi! Schifosi! Di noi. Mostri! Mostri, mostri! Fuori dai piedi! Mi fate schifo! Fuori! Avete sentito? Fuori dai piedi! Questo è il matrimonio burlesco del piccolo Hans con Cleopatra, in cui i freaks accettano Cleopatra come una di loro, perché lei ha riconosciuto a loro la dignità di amare, di innamorarsi, di poter vivere assieme alle persone cosiddette normali. Quando si accorgono che era uno scherzo, che era semplicemente un atto ancora più insidioso e denigratorio della Cleopatra con il suo fido amante nei confronti loro, faranno la loro vendetta. La scena del Google Gabol è uno di noi, è una scena ormai classica. Viene a pensare che dietro tutto questo ciò che manchi è una profonda cultura che non sia soltanto di facciata, soltanto di accettazione salottiera del fatto che esistono anche persone con dei problemi. E questo mi fa riflettere, mi fa pensare. Oggi tutti mi dicono: ah, per colpa tua hanno licenziato una donna. Ma nessuno ha chiesto la testa di nessuno, come ripeto, nessuno ha chiesto niente, semplicemente ci siamo con altri amici, molti ne sentiremo fra un po', sentiti di prendere un po' in giro le persone che facciano un casting cercando un disabile che ispira tenerezza. Abbiamo coniato un hashtag, lo dirò una volta e non lo dirò mai più, l'ho detto assieme a mio figlio. Noi quello ci sentivamo di dire, conoscendo da vicino comunque il mondo della disabilità, diciamo sì, tenerezza sto cazzo, per modo di dire. Cioè, io ero reduce da una settimana di shooting, sto girando un film proprio su un particolare tipo di disabilità che è l'autismo, avevo visitato decine di famiglie e tutto mi veniva in mente meno che di pensare ciò ispirasse tenerezza, ispirava problematicità, ispirava latitanza delle istituzioni, ispirava diffuso senso di indifferenza nei confronti di chi ha un problema in più rispetto agli altri, ma tutto meno che tenerezza. Veniva di pensare perché l'azienda di Stato, la più grande industria culturale che abbiamo in Italia, si sta rinnovando, sta cambiando, quando va a toccare un argomento così comunque pesta una cacca di cane e cerca la tenerezza. Mi viene in mente quello che già accadde il 2 aprile per la giornata internazionale dell'autismo, quando giravano a circolare la RAI cerca famiglie di autistici per fare un documentario, purché siano situazioni positive, a lieto fine. Quale lieto fine ci può essere per una sindrome da cui non si guarisce? 800 24 00 24, che ne pensate del disabile che deve ispirare tenerezza? Sergio, buongiorno. Buongiorno Gianluca. Io francamente sono abbastanza colpito da questa storia, ma non tanto perché il discorso della tenerezza in generale, per il fatto che non si sia stigmatizzato il vero autore di questa richiesta. Allora, il vero autore naturalmente è l'Archibugi, non la persona che ha fatto l'annuncio, la quale non ha fatto niente altro che raccogliere quelli che erano i desiderata del regista. Quindi semmai, voglio dire, Perché il regista ha fatto questo tipo di richiesta? È la cosa che mi sono posto anch'io. Allora, l'Archibugio ha fatto subito... Sì, no, aspetta, ferma un attimo, Sergio. L'Archibugio ha fatto le sue scuse, ha detto che è allibita. La società di produzione ha detto che abbiamo interrotto il contatto. L'idea, il contratto, l'idea mi viene che in fondo è l'anello più debole. È quella che gli hanno dato un mandato, dice noi cerchiamo tutta una serie di personaggi, come è normale, come cerco uno coi baffi, uno con la barba bianca. Ovviamente. E fra cui cerchiamo anche un disabile, però mi raccomando, non uno brutto, con la bavetta alla bocca o con gli occhi storti o che sia come e il film. Il casting segue pedissequamente quelle che sono le richieste del regista o dello sceneggiatore o chi per essi. E allora voglio dire, che cosa ci vuole vendere l'Archibugi? E questo è il problema. Tra le altre cose, cioè, voglio dire, poi potrei avere anche un'infinità di cose da dire sul per quale motivo l'azienda di Stato si mette a fare un prodotto di questo tipo, con questo tipo di premesse. Però scusami Sergio, non è che la disabilità sia irrappresentabile, può essere rappresentata, ma non è nemmeno obbligatorio farlo. Però chissà perché io voglio dire, mi aspetto casomai un'inchiesta fatta da una persona come Piero Angela, per esempio, su quelli che sono i problemi psicologici del mondo della disabilità e come questi non vengano in realtà supportati da questo Stato che spreca un'infinità di risorse e non usa il denaro dove dovrebbe essere fatto. Ma allora dovrebbe essere un documentario di tipo scientifico, con prove, con statistiche, non un film. Un film è qualcosa che deve essere venduto. Io mi sto sforzando a fare un docufilm, sto girando con una troupe di prim'ordine l'Italia e sto parlando con le famiglie, è quello che posso fare, perché è una maniera di raccontare. Oggi si racconta molto più facilmente con delle telecamere e con un foglio di carta, però è chiaro che l'intento deve essere quello di raccontare una realtà per quello che è. Si può anche fare una fiction, benissimo, figuriamoci, abbiamo delle fiction fantastiche in cui il protagonista è un disabile, mi viene in mente Elephant Man, tante altre, ma sono attori che svolgono quella parte, non è che io vado a cercare, a attingere in una categoria di esseri umani, quello purché sia carezzevole, sia gentile. Grazie, buongiorno. Grazie. Buongiorno. Dunque, io intervengo perché intanto rimango allibita dall'Archibugi, che anni fa ha fatto un film proprio sulla malattia in generale, quello sull'epilessia, il grande copomero. Adesso non vorrei nemmeno, guardi, non vorrei nemmeno adesso cercare capri espiatori. Io dico, e me ne prendo la responsabilità, comunque sia ciò riflette una percezione diffusa anche nella fascia di popolazione che in fondo gestisce il pensiero, costruisce l'opinione. In realtà molte volte l'ho visto, lo vidi io quando Corradino Mineo dava, personaggio di grandissima cultura, di grande spicco, di grande apertura sociale, dava dell'autistico a Renzi per dargli dello scemo. Forse ancora bisogna fare un passo avanti per dare un senso alle parole che si dicono quando si trattano certe realtà. Termini, per gentilezza, grazie. No, io volevo dire, a parte che comunque, voglio dire, cioè, usare una regista di questo calibro, che io ho sempre considerato molto bene, per fare una richiesta del genere in un momento comunque che dove comunque i disabili da anni vengono comunque considerati, grazie a Dio, si è comunque aperto un po' la mentalità dell'italiano o comunque in generale sulla disabilità. In tutti i sensi, diciamo, si comincia a parlarne con meno angoscia, se ne parla, non che cambino molto le cose, se ne comincia a parlare, diciamo questa differenza. Niclo, buongiorno. Buongiorno Gianluca. Senti, io volevo un attimo intervenire sulla questione proprio di cui si sta trattando in questo momento. Io sono il papà di un bambino disabile che dà tenerezza, tra l'altro, quindi voglio dire, sei fortunato. No, questa era provocatoria la cosa, sì. Ovviamente, però io non mi meraviglio di questo fatto, perché oggi la società è quello che vede, cioè purtroppo oggi la disabilità è vero che se ne parla, ma molti, per pulirsi la coscienza, hanno compassione, hanno tenerezza del disabile, non lo considerano una persona, ma una persona come tutte quante le altre, con un piccolo problema, ma è quella persona da coccolare, da aiutare. Questo purtroppo è quello che viene fuori. Abbassi la radio, guardi, dico abbassi la radio perché rimbomba, sì, un po'. Questo è il problema che viene fuori oggi, per cui noi ci troviamo, a me molte volte dà fastidio quando si avvicina qualcuno, mi dice ciao, che carino, sai, queste cose qua. E la cosa mi dà fastidio proprio perché... Senta, allora mi aiuta a rispondere, perché mi scrive un ascoltatore e mi fa, diciamo, le pulci sono una cosa che da ieri me lo sento dire, ne posso più manco sentirmelo dire. Dice, Nicoletti, non ironizzi mortificandomi, per favore, mi faccia capire dove sta il grave nel dire un handicap che intenerisca. Prevale la forma sulla sostanza, Lucia. Lo spieghi lei, perché intanto è così difficile capire. Io vorrei far capire al signor Lucia che non è nulla, nessuno si straccia le vesti. Ma infatti, nessuno si straccia le vesti, però... Come diciamo noi? Dov'è il grave? Il grave è che tu vuoi una persona che ha già un problema soltanto se certo. Se è carino, solo se è carino. Se non è carino non lo vuoi. Ne prendi due e li metti in fila, quello con gli occhi storti a casa, quello con gli occhioni teneri da micino bastonato, sì. Che faccia compassione nel pubblico, che faccia dire al pubblico che è carino. La cosa che dà fastidio, perché il disabile può essere anche brutto, può essere anche orrendo, può essere quello, ma è una persona, ha un'anima, ha una mente... pensante o non pensante, poi dipende dalla patologia, ma è una persona. Questo dobbiamo, se passa questo concetto, non cercheranno più un disabile carino o un disabile... Allora, fermiamoci un istante a dare la linea. L'ospite che sta ascoltando avrà molti più argomenti di me per parlare di quello che è ormai il tema del giorno. Avrei preferito, dico molto sinceramente, ma lo dico proprio in piena sincerità, non dover essere costretto a parlare di questa cosa. Non mi sento oggi un grande figo o uno che è riuscito a conquistarsi le pagine dei giornali o insieme alla persona, sentirete fra un po', quello che ha dato una scossa. Nessuno ha dato scossa a nessuno, tutti continueranno nelle loro belle terrazze a scambiarsi drink, a parlare di quello che faranno quest'estate, di quanto è bello e quanto è carino quel loro amico, di quanto è deliziosa quell'altra loro amica, faranno i loro film, faranno le loro fiction, faranno i loro discorsi, ti guarderanno magari con un attimo di compassione, ma poi la tua vita te la dovrai affrontare ogni giorno da solo, con le tue forze. Però quando possiamo, perlomeno ci facciamo sentire. A tra un istante. JP Morgan Asset Management vi presenta Melog, cronache meridiane. .800240024, oggi parliamo del caso di Società del Giorno, il casting Rai che cercava un disabile purché ispirasse tenerezza. A me non piace il messaggio, ci manda un ascoltatore dicendo perché non ha preso Brunetta l'archibugi che è piccolo e ispira tenerezza. Ecco, non mi piace, al di là della... dell'essere concordi o discordi con quello che dice Brunetta, rientra in un altro tipo di discorso. Discriminare una persona, prenderlo in giro per la sua bassa statura, non mi sembra un atto di grande civiltà o di grande apertura mentale o di grande leggerezza, capito? Quando non so che dirti, prendo in giro perché sei brutto, sei basso, sei storto, parli male, hai lo sguardo che non mi piace, hai la pelle che non mi piace, via dicendo. Non trovo che anche quando Crozza fa l'imitazione Brunetta e lo prende in giro per la sua statura fisica, quando altri prendono in giro Brunetta per la sua statura fisica, e non ho particolare motivo né di simpatia né di antipatia, mi è totalmente indifferente come la gran parte della politica Brunetta, trovo sia un atto di sufficiente comprensione della civilizzazione che stiamo inseguendo. Paolo, buongiorno, velocemente. Buongiorno Nicoletti, buongiorno a voi. Senti, io ho sempre combattuto con il sovrappeso e sono stato discriminato tante volte anch'io. Voglio dire una cosa, chi ci dice a noi che il casting del disabile che ispiri tenerezza, la tenerezza non sia una qualità fisica ricercata, ma una capacità attoriale? Penso a Lillo del film di Benigni, Johnny Stecchino, magari allo stesso tipo di disabilità c'era uno che non riusciva a dare le stesse sensazioni recitative di quel ragazzo con sindrome di Down che poi ha fatto il personaggio di Lillo. Insomma, voglio dire, di film, di cinema che usa anche persone disabili ce ne sono tante. Penso a un film australiano in cui c'era una donna che tra l'altro aveva dei rapporti sessuali in questo film, non ricordo il titolo purtroppo, ma occupandomi di cinema insomma l'ho visto, e a il silenzio, come si chiamava, quella che vinse anche l'Oscar, che era sordomuta. Insomma, il cinema ha sempre attinto a persone che dovessero interpretare una disabilità in quanto disabili. Poi però il fatto di ispirare o meno un certo tipo di sensazione nel pubblico probabilmente è più legata alla capacità della persona con disabilità o senza disabilità di recitare. Io non entro in merito alle scelte di regia, entro in merito nella parte più ampia del discorso, che quando si cerca un disabile, si deve rappresentare una fetta dell'umanità che vive dei problemi, lo si vuole che ispiri tenerezza. Mi sembra abbastanza limitativo, mi sembra che ci sia proprio uno sforzo per comunque edulcorare e dare una visione che non guasti, che non metta disagio nel abbonato in prima fila che in quel momento sta mangiando la pasta asciutta e non vuole vedere un disabile che potrebbe fargli mandargli attraverso quello che si sta mangiando. E questo te lo dico sinceramente, da chi vive questi problemi, li conosce, conosce molte persone che vivono questi problemi, è una cosa che dà molto fastidio, difficile che lo percepisca probabilmente, e questo è il passo culturale da fare, chi il problema lo conosce soltanto quando se ne parla appunto sui giornali. Massimiliano Ulivieri, buongiorno. Buongiorno Gianluca. Allora, Massimiliano Ulivieri parlerà adesso al posto mio e darò molto spazio a lui. Massimiliano Ulivieri, l'abbiamo chiamato più volte, probabilmente la persona più sgradita a coloro che vorrebbero un'immagine di tenerezza della disabilità, anche perché sta facendo una battaglia per l'assistente sessuale disabile, che è un'altra delle cose di cui si può parlare. Il disabile deve essere come un angioletto, non deve avere nessun tipo di desiderio, e lui dice no, io sto battendomi perché ci sia anche in Italia quel passo di civiltà che permette una vita affettiva, relazionale e sessuale, erotica, piacevole anche alle persone con disabilità. Cura un sito, lovegiver.it, dove troverete tutto quello che è passo per passo la sua difficile battaglia. Massimiliano Ulivieri è colui a cui spetta il copyright della frase tenero sto cazzo, che ha ispirato poi quel filmatino che ho fatto io sull'autostrada con mio figlio, è esploso naturalmente come un hashtag che dà un senso. Vediamo di riportare le cose però in un piano per cui valga la pena aver fatto questo tipo di esposizione, Massimiliano. Vediamo se riesci a spiegare te, descrivi la tua situazione senza fare tenerezza troppa alla radio, perché non è detto che tutti ti conoscano, e spiega perché ti sei sentito per primo in dovere di dare una definizione così cruda rispetto a questo casting che molti giudicano ancora totalmente inoffensivo e lecito. No, hai detto bene prima tu, probabilmente quando ci sono persone come noi che vivono non solo la disabilità su se stessi o su persone vicine, ma che sentono il polso di moltissime persone con disabilità e anche famiglie con figli disabili, e io per le attività che faccio lo sento benissimo da centinaia di persone, chiaramente capiamo meglio forse perché ci siamo un attimo imbizzarriti. Ora non pensavo che si allargasse così tanto, però il senso era non tanto il fatto che appunto quello che ha scritto lei, ma il fatto che non ci sia diversificazione, è quello che dà un po' fastidio. Posso anche accettare che ci siano dei contesti dove ci siano delle persone che ispirano tenerezza e va bene, ma se fosse diversificata la richiesta sarebbe più accettabile. Invece a quanto pare questa diversificazione, soprattutto in canali tipo la RAI, che magari devono essere un po' più attenti alle reazioni del pubblico, non c'è. È lì che ci siamo un po' sbizzarriti e un po' innervositi di questa strana richiesta, che non è poi strana, però la mancanza totale di diversificazione. Guarda Massimiliano, io me ne prendo tutta la responsabilità di quello che sto dicendo. Trovo indegna perfino la pubblicità quando fa vedere ancora il bambino nero macilento con la pancia gonfia e dice dai i tuoi soldi per questo bambino, la trovo indegna, la trovo veramente indegna. Però evidentemente, come molti mi sottolineano, mi insegnano dandomi a me lezioni di comunicazione, di marketing, pubblicità, dice ma sai, questo chiede la gente, se tu vuoi ottenere un risultato devi fare vedere la mamma che piange, dice aiuta mio figlio, il bambino autistico poverino nella bolla con la mamma che lo salva e via dicendo. Ma è possibile uscire da questi stereotipi? Dobbiamo arrenderci che in fondo, e dobbiamo cavalcare lo stereotipo, te ti puoi mettere, che ne so, un cappello da pagliaccio, puoi fare lo sguardo tenero, magari ottieni molta più attenzione, non lo so. No, guarda, sarà difficile perché io possa trasformarmi in questo modo, nel senso che comunque io ho un certo tipo di carattere, posso avere anche delle ispirazioni di tenerezza, ma ispiro tante altre cose, insomma, visto anche gli argomenti che porto avanti. Il fatto è che purtroppo è quello che il pubblico alla fine richiede o sente di questo tipo di persona. Io anch'io l'ho detto e mi dispiace dirlo, non se la prenda nessuno, ma ad esempio, tu hai portato un esempio, io ti posso portare anche gli esempi quando si parla di raccolta fondi, Telethon, cose di questo genere, che escono fuori decine e decine di video di un certo tipo, ospiti di un certo tipo, e anche lì chiaramente viene utilizzato lo stereotipo del disabile. Uscendo fuori bisognerebbe che qualcuno avesse il coraggio di fare delle cose a prescindere dall'Auditel, il che la vedo molto difficile però. Gianluca, buongiorno. Gianluca, ascoltatore, sì. Gianluca, sì. Allora, io sono uno zoppo all'80% di invalidità. Ho amici che hanno la SLA, ho un paio di amiche che una c'ha la SLA e una gli manca una gamba. Tutti quanti siamo sportivi ad alto livello. Una fa anche gli internazionali, è stata in selezione per le Olimpiadi. Risultato finale, io faccio anche il chirurgo e contrariamente a quello che fanno i normodotati, i cavalli me li preparo da me. Risultato finale, il discorso è questo, la pietà, il poverino, fa schifo, fa veramente schifo, profondamente schifo. E io credo che una buona risposta sia, primo, i paraolimpici e i paraatleti, che dimostrano che cosa? Che siamo capaci anche contro i normodotati, che non siamo da compatire, siamo perfettamente in linea. D'altra parte c'è anche un altro discorso. Per i normodotati è molto brutto rendersi conto che degli invalidi, secondo loro, sono superiori a loro. E se non riescono a batterci, vuol dire che sono proprio poca roba, eh. Gianluca, ricordi il fatto che poi dopo, diciamo, è stato adombrato da fatti crudi di cronaca, ma di Oscar Pistorius, che veniva considerato, il suo handicap era senza gambe, una forma di doping, era talmente veloce sulle sue gambe, esatto, a carbonio, che esatto, era considerato dopato, dice, perché esatto, era troppo forte. Resta il fatto che a un certo punto, molto meglio così, ma a un certo punto, non anche semplicemente il fatto di dire, come si dice, handicappato motorio, oppure quell'altro audio leso, roba del genere, cazzo, a un certo punto chi se ne frega se uno lo chiami zoppo, se lo chiami sciancato o come cazzo ti pare, il problema è un altro, è a un certo punto rendersi conto che quello è perfettamente in grado di essere, non come te, di più, perché se arriva dove sei te vuol dire che, essendo partito con l'handicap vuol dire quelli sono i più bravi, quelli che hanno l'handicap nelle corse, come nelle corse dei cavalli, la stessa, esatto, cosa, esatto. Quindi se ha l'handicap e è a livello dei normodotati vuol dire che è migliore sicuramente, se invece è migliore allora vuol dire che i normodotati sono veramente poca roba. Senti Gianluca, mi spieghi un po', tu sei un chirurgo, mi hai detto, un chirurgo zoppo, ti chiami. Cosa vedi intorno a te, dai tuoi colleghi, le persone che ti assistono, le persone che tu visiti e che operi? Lo vedi ancora quello sguardo che oggi nessuno avrebbe più il coraggio di tradurre in una frase? Ma cosa vedi di diverso rispetto a come possono guardare qualsiasi altro tuo collega? Ma non vedo niente, perché a un certo punto io, quando mi dissero che potevo alzarmi da una sedia a rotelle, forse con due bastoni, e me lo dissero che avevo 20 anni, va bene, per piccoli tratti, stavo già rimontando a cavallo, e sembro normale, sembro un po' dondolante come uno che ha una caviglia storta, in realtà dal ginocchio in giù non c'ho più sensibilità e le gambe sono ridotte praticamente a ben poco dal ginocchio in giù, però nel mio caso si vede poco, tant'è che molte volte quando c'è i parcheggi, quelli per gli handicappati, se c'è anche un parcheggio normale libero vado in quello normale, perché ritengo che altri siano molto più incasinati di me e meritino di avere quel posto. E poi quando c'hai gli stivali con gli speroni e vai a cavallo, ti vede, cioè, la differenza. Quando sono in sella, do noia, vado molto bene. E a terra molta gente nemmeno se ne accorge. Ecco. Chiudiamo, fermiamoci un attimo, dare la linea, poi c'è Serafino in attesa, tra poco. Melog, cronache meridiane. 800 24 0024, stiamo trattando il caso del casting Rai che cercava un nano o un disabile che ispiri tenerezza. Lo stiamo facendo con Massimiliano Olivieri, che è responsabile del progetto sull'assistente sessuale in Italia, si batte da anni per i diritti dei disabili, lui stesso è disabile, voi non lo vedete alla radio, ma vi assicuro che è un ragazzo che ha tanti problemi. Nonostante questo, riesce con grande orgoglio e grande rabbia a vivere una sua vita, e per di più si sta battendo per un diritto del disabile che è fra i più difficili ad ammettere, perché siamo un paese estremamente moralista. Sta cercando di fare in modo che noi facciamo questo ulteriore passo di civilizzazione e garantiamo anche alle persone disabili una vita affettiva, relazionale, emozionale e sessuale. Cura un sito www.lovegiver.it. Massimiliano, ti leggo un messaggio. Nicoletti, dai, non fare il moralista, il mondo è bello perché vario. Se non si capisce questo, ci si pone sopra tutti e si fa discriminazione vera, cioè io sto discriminando chi può avere il diritto comunque anche di avere questo atteggiamento. Io dico la mia, poi tu dici la tua. Se oggi ci fermiamo sul valore delle parole e ci fermiamo su quelli che sembrano aspetti superficiali, esteriori, dico io, poi dirà Max la sua, non lo facciamo semplicemente perché siamo politicamente corretti, siamo moralisti. Io sono più schifoso, immorale delle persone che potessiate ascoltare alla radio. Ho cavalcato il cattivismo come maniera per tanti anni, tanto che mi sono stufato e oggi mi piace parlare in termini più civili, quindi mi fa sorridere chi vuol per forza essere cattivo a tutti i costi. Se ci fermiamo sulle parole, perché le parole corrispondono fatti, perché alla disattenzione di personaggi da terrazza semplicemente sul fatto che il disabile può anche non essere carezzevole e dolce, corrisponde poi a ricaduta, come se fosse una sorta di domino che fa cascare tanti pezzetti, una mancanza di servizi, una mancanza di attenzione, una mancanza di solidarietà rispetto a persone che hanno più difficoltà. Dimmi la tua. No, dall'altro dice il mondo è bello perché è vario. No, veramente noi stiamo discutendo il contrario. In questo caso non è vario per niente. Il disabile è quello, teneroso e basta. Magari fosse vario, ci sarebbe spazio per tutti, dici? Certo, assolutamente sì. Senti, rispetto alle possibili rappresentazioni anche del diritto all'emotività del disabile, non se ne parla mai. Come vedi, lo cercano carino, tenerino, non lo cercano arrapato, come potrebbe anche essere comunque un disabile. No, beh, assolutamente. Non potrebbe essere. Ce ne sono tanti di arrapati, giustamente, perché insomma, nel momento in cui si spegne quella voglia, forse è l'handicap maggiore, assolutamente. Senti, io mi sono fatto un giro in Italia visitando famiglie con ragazzi adulti con problemi di disabilità psichica e relazionale. Adulti sono quelli che scompaiono, tu lo sai meglio di me, dopo una certa età rimangono chiusi non si sa dove. Il primo problema per le famiglie, pensa, e per questo ti coinvolgerò, è proprio quello. Le mamme che mi dicono: ma come faccio con questo mio figlio? Come faccio? Mi rendo conto, può avere dei bisogni. Dico: ma non ha parlato con nessuno? No, di queste cose non se ne parla. Come vedi, c'è ancora una dimensione profonda, che è quella che sembra più importante per ogni essere umano, che viene totalmente sottaciuta. Perché su questo non lavorano i registi, i creativi, coloro che attraverso l'arte del cinema raccontano tutte le sfaccettature dell'umanità? Assolutamente sì. Poi tra l'altro ha raccontato anche le situazioni forse meno gravi, il fatto di non parlarne. Ma qui io l'incontro, sai benissimo quante persone, famiglie incontro in tal senso. Qui si parla anche di famiglie che portano a volte figli dalle prostitute, ma ancora peggio, di madri che arrivano a masturbare i figli. Ah sì? Figli, assolutamente, è una cosa... La manina della mamma è uno dei fenomeni, non si dice, ma è così, eh? Non si dice, ma purtroppo vengono consigliate di farlo da medici e da preti, cioè, signora, ci pensi lei? Ponetevi questo sul piatto, visto che avete lo stomaco pronto a tutte le esperienze, siete registi di frontiera che raccontate tutti gli aspetti della diversità. Ponetevi questo problema delle mamme che masturbano i figli, come vi dice Max Olivieri. È qualcosa che fa parte dell'umanità. Mamme che vanno a chiederlo al prete, al medico, cosa devo fare, e purché la cosa si consuma in famiglia, questo fanno alcune madri. Serafino, buongiorno. Buongiorno. Abbassi, spenga la radio. Sì, l'ho spenta. Allora, il suo punto di vista. Guardi, Nicoletti, che nel caso dell'Archibugi la discriminazione avviene nel momento in cui lei si scusa invece di dare spiegazioni, perché il caso era stato trattato bene, come per un attore normodotato si chiede che susciti simpatia, così per un ragazzo con un deficit si chiede che si susciti simpatia, cioè viene trattato esattamente come gli altri, è nella richiesta che venga trattato in modo diverso, è in questo scandalo che viene suscitato che si fa discriminazione. Questo è il mio punto di vista. Mi permetto di dire, il suo punto di vista lo rispetto come ogni punto di vista, però chi conosce il problema, pensare che tanto bene non cerchi uno, deve essere, anche suscitare simpatia. Io ci tengo a dire che il disabile può essere antipatico, può essere infame, può essere cattivo, può essere tutte queste cose, se no altrimenti non sarebbe un essere umano. Soltanto gli angioletti con le ali in realtà non danno il senso di una parte dell'umanità. Paolo. Buongiorno Nicoletti, io ho avuto per 8 anni una moglie in carrozzina, una moglie che aveva voglia di vivere, che aveva voglia di vivere normalmente il più possibile. Il problema, secondo me, da parte di normodotati, tra virgolette, è di confondere la pietas col pietismo, di vincere le paure che hanno loro dentro e di sentirsi buoni. Il sentirsi buoni era quello di, come gli ispirava simpatia, perché sorrideva sempre nonostante il tutto. Le uniche volte che si arrabbiava era quando appunto qualcuno si avvicinava, oh poverina, oh come guarda la poverina. In effetti quella non era pietas, è il pietismo per trovare delle giustificazioni e sentirsi buoni. E il problema a questo punto non è del disabile, penso, ma del normodotato. Grazie, saluto. L'ultimo sms che è arrivato: Olivieri è anche un bel figo. Ma su questo poi c'è molto da dire. Ciao Massimiliano Olivieri, ciao a tutti quelli che ci hanno seguito, abbiamo detto la nostra, pensatela come volete, tanto questo non ci guarirà e non ci cambierà la vita.